Zolt. Fulminati in azienda. Allora, dopo aver riflettuto a fondo con il nostro coach preferito Donald Jump, ho deciso di delegarvi la gestione dell'azienda, perché qui non posso mica decidere sempre tutto da solo. Ma è un risultato meraviglioso, vedi? Cioè, che tu abbia compreso e interiorizzato questo approccio manageriale delegante... A me mi pare, scusa, che non sia tutta sta novità. Tanto, alla fine, me scarica sempre tutto a me che sono il manager intermedio. Ma no, Centri, ma qui non si tratta di scaricarti del lavoro. Io voglio delegarvi la presa delle decisioni, perché non posso decidere tutto io. Sì, scusami, e per quanto tempo desideri sperimentare questa delega decisionale, Marco? Quanto tempo secondo te potrebbe essere opportuno? Sì, ho capito la domanda. Beh, per ben 3 giorni, in pratica tutto il weekend di Pasqua. Sì, ma non ti pare un po' pochino? Cioè, intendo dire, quante decisioni di alta strategia capiterà di prendere in 3 giorni? Tra l'altro, festivo. Certo, perché voi non siete al mio posto e non avete proprio idea di quante decisioni strategiche devo prendere io da solo tutti i giorni festivi. Allora, amore mio bello, decisione strategica del giorno festivo. Oggi pomeriggio andiamo a vedere i pesci pagliaccio o sorvoliamo le piramidi? Le piramidi? Ma che antichità. Andiamo a ballare tutta la notte, nel villaggio c'è la disco. Ma non possiamo, amore, dai, stanotte abbiamo il volo di rientro. Ma come, di già? E domani devo rientrare. Ascolta, già è stata dura convincere mia moglie che a Pasqua e a Pasquetta dovevo vedere il cliente egiziano. Aspetta un attimo, scusami tesoro, ma mi suona il cellulare. Pronto? Marco, scusa se ti chiamo il lunedì dell'angelo. Scusa, appunto, che cosa può essere successo di così straordinario a Pasquetta, dai? Marco, è una questione da altissima strategia che non si può risolvere senza di te. Io non mi assumo la responsabilità. Certo, lo sapevo, perché io delego e poi tutto mi torna indietro e devo decidere tutto io. Vabbè, quale sarebbe il problemone strategico? Capo, è arrivata col fax stamattina una lettera di un certo avvocato che te può vedere urgentemente. Ma di che cosa ti preoccupi, Centri? La nostra azienda non ha scheletri nell'armadio. È l'avvocato di tua moglie. Ah. Un corvo l'ha informata che stai sul Mar Rosso con Katia Urla e vuole il divorzio. Centri, ascolta, facciamo così, dai, conosco mia moglie, in questi casi la cosa migliore è lasciare che si calmi. Diciamo ancora un paio di giorni, va, facciamo ancora 2 giorni di delega. Chiavo, non mi dica che ci scarichi, che te nascondi nel sarcofago egiziano. Centri, chiamami Tutankhamon. Zot è scritto e interpretato da Andrea Beretta, Nicola Giunta, Andrea Notarnicola e Patrizia Sorrenti, con la partecipazione di Chiara Romersa, Emanuele Margiotta e Pina Luciani. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3Z 2O 1T.